Aspettavamo solamente la voce di Lars Ulrich che cantasse questa fantastica canzone. Free Speech, mercoledì 23 novembre 2022. Un po' in ritardo, un po' di problemi tecnici, come ci piace sempre, perché Radio ZM o fai così o poi non puoi fare radio. Siamo qui collegati già finalmente, incredibilmente, con Benedetta Argentieri e Alice Lucchini. Presentata a nome e cognome, anche se è redazionista, va bene. Ci sono, lo scemo col microfono in studio, sempre Guglielmo. Buonasera a tutte. Buonasera a tutti i spettatori. Va bene, allora, mentre aspettiamo che come al solito Radio Cina 1 ci faccia la partnership e quindi 1.800.000.000 di cinesi ci ascoltino, faccio una breve presentazione. Questo è un programma che si espone l'idea di parlare di giornalismo, di giornalisti, di giornaliste, cioè dell'importanza e del ruolo che hanno in questo mondo dell'oggi, nell'era dell'informazione, chi racconta e come racconta l'attualità, la cronaca, la politica, la società. Abbiamo fatto una prima puntata di lancio con Gabriele Battaglia, dalla C, parlando più che altro di Cina e geopolitica. Oggi rimaniamo anche sulla geopolitica con Benedetta Argentieri, giornalista, documentarista, saggista, ha fatto svariate corrispondenze dall'estero, esperta in questioni medio orientali e mi pare di poter capire già nuova beniamina del cuore di Alice, che si è mezzo innamorata a scoprire la carriera e le opere di Benedetta. Assolutamente. Va bene, allora io tendenzialmente farò soltanto proprio il deficiente e quindi lascio le cose più serie e importanti ad Alice, che è molto più brava di me. Nel frattempo impazzirò a gestire il mixer da lontano e basta. A questo punto, secondo me, Alice, se vogliamo iniziare con dalle cose più soft, iniziamo a scaldarci e a chiedere a Benedetta un po' di cose. Prego! Assolutamente, eccoci. Sì, io già fan. E, allora inizierei dalla prima parte sul giornalismo, quindi il tuo lavoro da giornalista, e poi la seconda entrerei un pochino in questioni un po' più di attualità e politica, che sono sempre le mie preferite. Quindi inizio con una domanda molto semplice, cioè cosa ti ha spinto a voler diventare giornalista e che percorso hai fatto soprattutto per fare di questo la tua professione? Ma guarda, quando ho cominciato a in realtà abbastanza da giovane, nel senso che già quando ero tipo al liceo, però per un fatto, perché mio padre era giornalista sportivo e seguiva la Roma, peraltro, perché era di Roma, e per questa ragione qua lui poi è morto, comunque io ero molto giovane, avevo detto no, non farò mai la giornalista, e quindi mi ho cominciato a fare altre cose, ho cominciato a studiare storia dell'arte, vivevo in Inghilterra. Mi ero trasferita lì tipo quando avevo 16 anni e poi tutta una serie di avvenimenti sono cominciati. È cominciato il G8 di Genova, poi le grandi manifestazioni contro la guerra in Iraq, sicuramente l'11 settembre, e in tutti questi avvenimenti, soprattutto già poi dopo il 2002, avevo capito che comunque a me sarebbe piaciuto raccontare quello che succedeva, no? Nelle piazze, quello che succedeva in giro, raccontare le storie delle persone anche con cui magari mi incontravo, di cui sentivo le storie, insomma era una cosa che mi aveva cominciato ad allettarmi parecchio, e ho trovato un primo stage in una piccola televisione romana che si chiama Super 3, e lì ho detto va bene, proviamo. Mi hanno messo a fare la cronaca nera, io non avevo mai fatto assolutamente nulla nel senso di giornalismo proprio, poi anche in Italia, cioè comunque io stavo studiando in inglese, quindi era già tutto un po' complicato. E quindi niente, ho cominciato e ho questa bellissima persona che era il mio caporedattore, che era una caporedattrice che si chiamava Sara, anche lei molto giovane, mi ha detto ok, va bene, questa lui è il tuo operatore, vai, vai, ce la farai. Ed è andata un po' così, insomma, ce l'ho fatto, ho passato 3 mesi d'estate molto belli a lavorare con loro, e piano piano ho capito che insomma avrei abbandonato non so quale tipo di studi, carriera mi poteva portare storia dell'arte, perché io studiavo storia dell'arte, e ho cominciato appunto a provare a fare la giornalista. E dopo la laurea sono approdata al TGCOM, che era proprio agli albori, perché sì, era proprio agli albori, e insomma lì ho passato 2 anni. Dopodiché sono andata al Corriere della Sera, dove ho lavorato per quasi 10 anni, prima in Cronaca di Milano, poi sul Corriere.it, e dove poi ho cominciato anche a viaggiare. Mi avevano dato, diciamo così, sotto grande insistenza, ho cominciato a viaggiare e interessarmi, no, alla politica estera molto di più. E poi la grande svolta per me è stata nel 2013, quando ho vinto una borsa di studio per andare a New York, alla Columbia University, a studiare giornalismo e politica. E quindi, ecco, cioè, quindi lì, no, perché mi stavo anche ricordando le cose, quindi lì che cosa è successo? Niente, diciamo che il mio orizzonte si è completamente aperto, ma in una maniera, diciamo così, radicale da tanti punti di vista, nel senso che poi comunque negli Stati Uniti, con tutte le contraddizioni, con tutti i mali che provengono dal quel paese, alcune cose le sanno fare molto bene, e questo era appunto insegnare a fare i giornalisti, proprio perché il giornalismo è comunque un mestiere, a prescindere, poi dopo possiamo entrare in tutti i risvolti politici, però, politici, però è un mestiere che si impara facendo, che si impara appunto scrivendo, eccetera. E loro, insomma, diciamo, con i diversi corsi che ho preso, perché ho preso dei corsi tipo sicurezza nazionale del Medio Oriente, quindi studiare tutte le varie politiche, la politica estera americana, capire anche, no, quante volte per le strade abbiamo sentito urlato slogan contro il capitalismo, contro le guerre, contro le cose, ma cosa vuol dire, come vengono fatte queste guerre, no? Cioè, per me, a me interessava molto anche capire tutti quei meccanismi. E infatti la mia tesi, peraltro, è stato sul MUOS, sul sistema di antenne, quello che c'è anche in Italia del Sud. Cioè che... Esattamente, che è un sistema, sostanzialmente, per farvela breve, gli americani, l'esercito americano doveva costruire una nuova infrastruttura proprio di telefonia, perché comunque le truppe erano in giro per il mondo a volte usando i loro telefonini, e questo comunque crea un sacco di problemi ovvi anche alla sicurezza, cioè comunque con tutta una serie di cose. E quindi avevamo ideato questo appunto MUOS, che si chiama, è l'acronimo di Mobile User Objective System, che è una rete dati sostanzialmente molto molto potente, che doveva coprire tutto il mondo, cioè dovunque l'esercito americano poteva, cioè. E quindi una stazione era alle Hawaii, una in Virginia, una in Sicilia e la quarta in Australia, per coprire così, diciamo, tutto il territorio in una maniera. Il problema qual è stato? È stato che per un sacco di tempo gli americani non sono riusciti ad accendere questo sistema, perché c'erano le proteste a Niscemi, no? E appunto io ho messo insieme tutta la parte tecnica e poi sono andata a Niscemi per intervistare tutte le persone che facevano parte facevano parte a quei tempi del movimento No MUOS. Okay, chiedo scusa, giusto perché è anche cronaca attualità, il problema dell'esercito russo nelle telecomunicazioni legato al fatto che appunto dovevano utilizzare i normali telefoni, quindi venivano intercettati con una facilità incredibile dagli ucraini, cioè, vabbè, ma non so se è vero o non è vero, ma mi pare che sia questa una delle varie faccende, cioè gli americani risponderebbero a questo problema col MUOS, non avevo assolutamente idea di questa cosa. Esattamente sì, il MUOS è sostanzialmente una super appunto mobile data, dove addirittura potevano vedere sui cellulari, cioè adesso in realtà il MUOS è acceso e quindi funziona, possono mandare le coordinate, quando fanno gli airstrikes e tutte le cose, no? Quando poi sei sui campi di battaglia, o anche solo inviare quello che succede, cioè come se fosse una sorta di 5G all'ennesima potenza. Cioè, di solo uso militare, quindi di solo esclusivamente uso dell'esercito americano, tutto il resto. Potenza globale mica per niente, d'altronde. Purtroppo. Vabbè, quindi dopo che faccio questa tesi, insomma, decido di licenziarmi dal Corriere della Sera. Io ero assunta con articolo 1 da pochissimo, peraltro, dopo tantissimo... diciamo così, vabbè, lasciamo stare, comunque dopo lunghe attese, e decido di licenziarmi perché non solo voglio provare a fare il giornalismo in un'altra maniera, ma vorrei farlo dagli Stati Uniti, dove comunque di fatto poi con la lingua inglese hai un mercato molto più ampio, nel senso che da freelance poi riesci, diciamo così, in qualche maniera a vedere un po' la luce. Poi le cose sono anche molto cambiate, però ci ho provato e ho cominciato. Il mio primo pezzo, diciamo così, è stato per la Reuters, perché nel 2014, mi sono laureata nel 2014, a maggio del 2014, ad agosto del 2014, vi magari ricordate che l'ISIS, lo Stato Islamico, beh, a giugno aveva preso Mosul e dichiarato appunto lo Stato Islamico, e ad agosto, il 2 agosto, va a Shengal e sostanzialmente invade tutto il territorio, schiavizza almeno 7.000 donne e fa di fatto un genocidio. E cosa succede? Succede che negli Stati Uniti c'è una grande comunità yazida, cioè una abbastanza grande comunità yazida, perché gli yazidi facevano traduttori agli americani durante l'invasione, diciamo così, e l'occupazione dell'Iraq, che poi Barack Obama comunque si ritira dall'Iraq nel 2010, tra il 2010 e il 2011 realmente, e un sacco di appunto traduttori, a un sacco di traduttori, non a tutti purtroppo, viene garantita la carta verde. E fanno, insomma, vivono tutti a Lincoln, Nebraska, o la maggior parte, che è una cosa che a me mi ha sempre molto incuriosito come dettaglio, e niente, e il 5 di agosto chiamano una manifestazione davanti alle Nazioni Unite per raccontare cosa stava succedendo a Shengal, perché comunque non era chiaro, cioè tutto avveniva, cioè, non so, io non so bene in Italia come si sia stata raccontata questa parte, però negli Stati Uniti comunque c'era attenzione rispetto a Shengal, al fatto che comunque lo Stato Islamico aveva preso Mosul e quindi tutte le armi, si diceva un sacco di cose, poi era stato molto sottostimato, soprattutto da Barack Obama, che a gennaio di quell'anno aveva detto, quando gli è stato chiesto che cosa pensava dello Stato Islamico di ISIS, e lui ha detto: ah, ma adesso è una squadra di serie B, sostanzialmente, quando poi, insomma, nell'arco di 9 mesi. E il mio primo pezzo è stato a raccontare una ragazza di 16 anni che era riuscita a scappare dall'ISIS tipo 25 giorni dopo, e raccontare non solo, diciamo così, la sua storia, ma anche fare con appunto tutte queste persone che ho incontrato davanti alle Nazioni Unite, tutti proprio la tratta, disegnare la tratta, no? Cioè da dove le avevano portati, quali erano i punti, no? Quello che è poi quello che si chiama anche open source intelligence, no? Cercare di mettere insieme le cose per raccontare la tua storia. E da lì sono cominciati, insomma, tutti i viaggi in Medio Oriente, poi è arrivata, diciamo così, poi sono arrivati i documentari, anche se erano cominciati un pochino prima, poi, insomma, però, insomma, se hai delle domande. Grazie mille, una storia pazzesca, cioè io veramente sempre più stima. E una delle domande che facciamo sempre, cioè uno degli aspetti che cerchiamo di toccare sempre in questi episodi è anche un po' come sta cambiando il mondo del giornalismo, quindi cosa vuol dire lavorare come giornalista nel mondo del giornalismo oggi, cioè ad esempio il ruolo dei social, che sta crescendo in modo esponenziale. Tu cosa pensi delle nuove forme che sta prendendo il giornalismo adesso, e secondo te quali sono i rischi per il futuro? Perché spesso sentiamo parlare di fake news, che sono sempre in aumento, spesso c'è confusione, e ci sono anche fenomeni di persone che non so come dire, però questa cosa che ad esempio sui social tutti possono diventare giornalisti, no? Qual è il tuo punto di vista su questa cosa? Allora, prima di tutto non credo che tutti possano diventare giornalisti, o meglio, tutti possono diventare giornalisti, però come dicevo prima il giornalismo è un mestiere che si impara, no? Che si impara facendo, nel senso che per me gli anni della cronaca di Milano sono stati estremamente formativi, nel senso che tante volte io facevo il jolly per molti anni all'inizio, soprattutto perciò mi mandavano un po' dovunque, cioè quindi capitava che, non so, un omicidio, oppure fare la guardia all'ospedale dove stava Berlusconi, cioè qualsiasi cosa poteva succedere. E a volte però non c'erano un assignment, ma c'era qualcuno che mi diceva: bene, trovo una notizia. E trovare una notizia vuol dire cercare. Purtroppo dal 2012 in avanti, io ho cominciato prima a fare da giornalista, io ho cominciato nel 2003-2004, e nel 2012 con l'arrivo dei social le cose sono cominciate a cambiare, e secondo me soprattutto poi con le primavere arabe, con l'arrivo delle primavere arabe, ancora di più, perché comunque era troppe persone hanno preso, diciamo così, le notizie da Twitter, eccetera, e a un certo punto Twitter si è trasformato, ma adesso secondo me un po' meno, però come la fonte delle notizie, almeno meno a livello globale. A livello italiano vedo che ancora, cioè, tante notizie si prendono appunto su Twitter. Io credo che questo sia comunque un po' la morte del giornalismo, nel senso che è come si fa a raccontare una storia, una profondità. Io quello che ho notato, io sono tornata di fatto poi in Italia a vivere, perché sono stata via, no? Fino al 2020, io sono tornata a vivere in Italia il 7 marzo del 2020. Fortunella, e... proprio, eh? Una scelta veramente azzeccatissima. Il 7 marzo del 2020, proprio. Il 7 marzo del 2020, vabbè, per tutta una serie di vicissitudini nella vita, E noto che comunque questa tendenza c'è ancora molto, e c'è un problema, cioè c'è una crisi strutturale anche del giornalismo, soprattutto in tutto il mondo sicuramente. In Italia in particolare quello che ho notato, un po' perché comunque è diventato sicuramente un mestiere elitario da tanti punti di vista, nel senso che non ti pagano più. Non vieni più pagata per fare il giornalista praticamente, cioè io sento delle persone che mi dicono che prendono 15 euro a pezzo, e trovo che sia abominevole, ma anche da grandi giornali. Perché? Perché comunque tu per sopravvivere o sei in grado di avere delle collaborazioni per cui scrivi 4 pezzi al giorno come minimo, ok? Oppure vuol dire che comunque da qualche parte o lo fai part time o lo fai, cioè comunque non è una cosa che, perché? Perché comunque tu hai ancora, vabbè, a parte insomma tutte le, quello che diciamo così, una generazione che è la generazione dei sessantenni che non lascia, non aiuta, non, comunque no, barriera, tetto, ma proprio sta tetto. E più comunque manager che continuano a prendersi i bonus nonostante comunque il giornale sia in perdita. Io comunque cito spesso un caso e poi entriamo nelle distretture comunque americane. È ovvio che il mercato, se tu scrivi in inglese, hai un mercato diverso rispetto a che se scrivi in Italia, no? Questo ci sta, e questo con le dovute differenze. Però nel 2012, tra il 2010 e il 2012, il New York Times era in grandissima crisi economica. Avevano appena comprato, avevano commissionato da Renzo Piano questa sede enorme a Times Square, pazzesca, non so costata quanto cosa, però insomma per tutta una serie di ragioni il giornale va in profonda crisi, e l'editore decide di vendere, e dice proprio così: noi vendiamo tutto, anche le sedie, ma gli stipendi ai giornalisti non si toccano e dobbiamo investire nelle nuove tecnologie. Tempo 10 anni, il New York Times non solo è tornato cioè il New York Times, ma è talmente grosso e talmente importante, ha investito talmente tanto tra podcast, comunque infografiche, data journalism, cioè riescono a fare talmente tante cose che comunque oggi stanno per diventare un monopolio, perché si stanno comprando tutti i piccoli giornali locali negli Stati Uniti, che è un altro problema. Poi lì entriamo in un altro problema, esatto. No? Però questo per dire che comunque se si ha una minima divisione, un minimo di comunque capire che cosa vuol dire fare il giornalismo, qualcosa secondo me si potrebbe anche fare. Certo che io no, no, figurati, no, in realtà è che dovevo fermare Alice e nel frattempo qua c'è popolazione, la radio, tranquillo, apri e chiudi la porta, tanto non è che si sente il microfono, figurati, vai pure, se vuoi sederti ti siedi, però no, adesso magari allargo che ci sono persone ben più visibili di me, ben più guardabili, che sono un po' terribile. Norberto, per chi lo conosce, e scusami, mi sono dimenticato il nome, Federica, e Federica, gente che vive questo luogo. No, allora io volevo fare una domanda magari banale, cioè da come la pongo è banale. Quali sono grosso modo le differenze nello stile di giornalismo, quindi nel mestiere del giornalista che citavi prima, Benedetta, tra il giornalismo europeo e quello statunitense? Cioè c'è un modo del giornalismo europeo o italiano, magari un po' più facile, e c'è un modo del giornalismo americano? C'è un modo di giornalismo italiano, c'è un modo di giornalismo europeo e c'è un modo di giornalismo anglo-americano. Sono tre maniere, tre approcci un po' diversi. Nel senso che in America c'è una pluralità e una possibilità, ovviamente appunto data dalla lingua, che non possiamo non... cioè comunque è un, diciamo così tra virgolette, un mercato, un audience molto più ampio, no? E questo vabbè è un fattore abbastanza importante, perché questo garantisce anche la possibilità di sopravvivenza a media, diciamo così, cosiddetti anche alternativi, che non è cosa da poco. C'è molto spazio a quello che si chiama investigative journalism, cioè inchieste ma che durano non una settimana, durano mesi, c'è un coraggio, poi dipende ovviamente, cioè in America c'è anche Fox News, però questo... Le generalizzazioni sono sempre... Le generalizzazioni sono anche tanti bravi, bravissimi giornalisti che fanno giornalismo proprio d'inchiesta. C'è una fondazione, per esempio, che si chiama ProPublica, che è una fondazione che fa solo e solamente inchieste. Io avevo degli amici che lavoravano e di solito loro pubblicavano un pezzo ogni giorno, ok? Perciò vuol dire cose che porti, e questo continuando a lavorare ovviamente 8 ore al giorno, cioè non una cosa. Poi ovviamente c'hai tutta la satellite TV, no? Negli Stati Uniti posso parlare di più perché la conoscono meglio rispetto a un generalismo di cosa europeo, e poi vabbè c'è un'altra cosa che a me piace moltissimo, che mi è sempre piaciuta moltissimo, è quello che si chiama feature writings, no? Perciò hai dei pezzi da 2000 parole, che sono non so quante battute, però 2000 parole, in cui racconti un avvenimento, un mondo o qualcosa attraverso le storie delle persone, dei personaggi, cioè proprio trovi dei personaggi eccetera, ed è quello in cui poi mi sono un po' specializzata io, che a me piace personalmente più come raccontare le storie, che fa parte proprio dello storytelling. E il giornalismo europeo, appunto, vabbè, togliamo quello inglese che è molto simile a quello americano con tutte le polarizzazioni del caso. I francesi sono molto bravi, hanno dei bravi giornali, dei belli approfondimenti, leggono molto di più rispetto anche agli italiani, eccetera. In Italia il problema è che è tutto basato sulle breaking news. E questo che cosa comporta? Comporta che non informi veramente. Io mi ricordo appunto quando ero tornata all'inizio proprio del Covid e tutto quanto, io non riuscivo a capire seriamente che cosa stesse succedendo e andavo sulla BBC, andavo sul Guardian, perché sui giornali italiani non riuscivo a capire, perché viene messa la dichiarazione del giorno, il dato del giorno e poi basta in realtà, perché poi lo spazio è cronaca. Sono morte 5.000 persone, ecco, cioè non c'è quella volontà di mettere insieme i vari punti, i vari fattori, no? Per avere una visione globale di quello che sta succedendo, globale nel senso olistica, ecco. E questo che cosa comporta? Comporta che prima di tutto le persone non sono veramente informate, ma sanno delle cose e non riescono a metterle, cioè non hanno gli strumenti per mettere il tempo, gli strumenti o le cose per comunque fare delle riflessioni. E questo è dato poi da tanti altri fattori, nel senso che le redazioni spesso sono sotto numero, non ci sono abbastanza persone per le cose che si vogliono e si devono fare. Questa volontà, secondo me, è entrata molto alla fine degli anni 2000 anche di dare al lettore quello che vuole. Ma cosa vuol dire dare al lettore quello che vuole? Dare al lettore, cioè, è anche una questione di equilibrio, no? Ci sono le cose che magari vanno bene, però non si è sempre, di nuovo, la rincorsa al profitto, no? Ai click, alle cose, per cui comunque poi cresce anche la disaffezione. Assolutamente. È una cosa che, cioè, secondo me si nota, cioè nel senso che io ho notato, non volevo interromperti, però è una cosa che poi si ricollega anche a un altro punto che volevo toccare, cioè al fatto di come lettori e lettrici, cioè io come lettrice percepisco tantissimo questa cosa e mi rendo conto di quanto cioè anche effettivamente un problema, secondo me, è che siamo bombardati, soprattutto in Italia, da notizie, ma spesso superflue, cioè buttate lì, assolutamente poco, non solo poco accurate, ma soprattutto poco approfondite. E quindi c'è questa sfiducia crescente, cioè per cui non si sa più di chi fidarsi, perché non cioè questa cosa che hai appena detto tu, cioè del fatto che appunto le breaking news è una cosa che si percepisce tantissimo, secondo me, e è difficile essere sentirsi veramente informati e informate su quello che sta succedendo, perché spesso, troppo spesso, sono proprio notizie, tante notizie, ma sempre molto, molto superflue, molto superficiali. E quindi anche questa è una cosa che abbiamo chiesto anche agli altri ospiti che abbiamo avuto, cioè come si fa, secondo te, anche come lettrici, lettori, a selezionare, a informarsi, perché è molto difficile, perché io sono nata nel 2002, quindi cioè i miei coetanei, capito, Benedetta, li fabbricano ancora, cioè allucinante, 2002, non me lo ricordavo questo dettaglio, 2002, basta, chiudo tutto, va, me ne va, cioè, fai da solo. Tra i miei coetanei è difficile spesso selezionare le notizie che valgono e capire anche quali piattaforme sono veramente valide per cercare di essere informati più o meno su quello che succede nel mondo, ecco. Perché io stessa un po' anche perché vivo all'estero adesso, quindi studio in inglese, anch'io ormai seguo soltanto le notizie pubblicate da grandi testate non italiane, quindi io ormai mi sono un po' spostata le classiche testate giornalistiche italiane, perché mi rendo conto che non mi danno quello che è abbastanza strumenti per capire quello che sta succedendo intorno a me. D'altronde, voglio dire, cioè, avere un pubblico informato, dei cittadini informati, vuol dire anche dargli la possibilità di scegliere, no? E a volte mi sembra quasi che ci siano delle volontà proprio non dai giornalisti di per sé, ma dalle linee editoriali, che poi dalle scelte editoriali che vengono prese, no? Di nuovo, se siamo sempre solo alla rincorsa, e soprattutto per l'Italia, secondo me, è molto così, del profitto, dell'aumentare i lettori, del fare più click dell'avversario, eccetera, l'avversario giornalistico, ovviamente, ma eccetera. E soprattutto io credo che anche i social media in generale non solo abbiano rovinato il giornalismo, ma anche le persone, no? Quante volte noi siamo in cerca della gratificazione facile, no? Quanti click abbiamo preso, quanti click non abbiamo preso. Questo poi si estende comunque, diciamo così, anche poi nella politica, non solo diciamo parlamentare, ma anche quella extra parlamentare, dei movimenti, eccetera. E questa frammentazione che noi vediamo comunque, di nuovo, si estende a tutte le varie reparti della vita, diciamo così, chiamiamoli così. Quindi, tornando a bomba, diciamo così, sul giornalismo italiano, sicuramente ci sono dei giornalisti che fanno degli ottimi lavori, e però parliamo di persone individuali. Esatto. E questo è un problema, ovviamente, perché comunque dici di nuovo, no? Cioè, non c'è veramente una. Non so, io penso a mia nonna, per esempio, e lei leggeva tutti i giorni il Corriere della Sera, no? E vabbè, adesso ovviamente mia nonna non c'è più, però vedo mia madre non legge tutti i giorni il Corriere della Sera, non credo neanche che sia abbonata, no? Per dire, ma si informa dove? Sui social media, che comunque lavorando con l'algoritmo ti fanno vedere esattamente quello che tu vuoi vedere. Quindi c'è questo problema qua. Tra l'altro, un piccolo aneddoto, che no, insomma, che mi è venuto in mente parlando appunto dei social media, del ruolo delle cose, ci sono due, vabbè, prima di tutto queste enormi fabbriche di troll, di fake news, no, di cui abbiamo parlato prima, e durante l'inizio della guerra in Ucraina, a febbraio e a marzo, in Ucraina ci sono tanti hacker molto molto bravi, e hanno preso di mira una fabbrica di troll che in realtà era in Turchia, e perché insomma per tutta una serie di fake news che stavano facendo. E poi che cosa succede? Riescono a fermare questa fabbrica di troll, non mi ricordo più per quanto. In quel momento il 90% delle notizie Novax in Canada è svanito. Madonna, è assurdo. Cioè, quindi proprio in questo mondo non solo iperglobalizzato, ma iperconnesso, no? Che ruolo noi giochiamo all'interno di queste cose? Esatto. Sì, grazie. Momento, faccio finta di essere redazionista serio. Stiamo parlando da una mezz'ora circa. Facciamo 3 minuti di musica per dare una pausa e un po' di respiro a chi ci ascolta e poi ricominciamo. Sì. Va bene? Sì. Facciamo così, allora io cerco di con le mie scarse abilità di alzare il volume, ci sentiamo tra pochissimo. lock me a silava, oh, holy pano. I got that gold on me a silava, oh, holy pano. Botty me, Molly, oh, holy pano. Tornati dopo una fantastica interruzione con Afrodisiac di Falacuti. Abbiamo notato che io ho già fatto parlare troppo Benedetta, quindi adesso Alice ci porterà direttamente a un sacco del cuore degli argomenti. Prego! Sì, ecco, continuando e spostandoci un pochino di più su qualche domanda un po' più provocatoria, un po' più politica sull'attualità, io volevo entrare un po' più nel dettaglio su quello di cui ti occupi tu, quindi da anni ormai appunto ti occupi principalmente delle guerre in Iraq e in Siria, e in particolare da quello che ho notato sul ruolo delle donne in questi conflitti. Quindi parto con una domanda ancora molto vaga per iniziare, quindi come, cioè anche prima parlavi di come, quanto è importante per te partire dai racconti, e quindi partire spesso dai racconti delle singole persone per dare un punto di vista su questi conflitti, quindi come scegli cosa raccontare e come scegli cosa raccontare, poi continuo con le domande. Principalmente ascoltando, nel senso che io ascolto tanto e mi piace molto parlare con le persone e non è solo ascoltare, ma ascoltare come dicono le cose, cioè notare le inflessioni delle voci, notare i movimenti, notare comunque tutta una, questa poi è come fai a dare, diciamo così, quello che in Italia si chiama colore, però è portare un personaggio alla vita proprio, mm-hmm. No? E scegliere le cose, sicuramente ci sono delle cose che comunque per me sono interessanti, per me è stata molto molto molto importante coprire, raccontare, scoprire anche la rivoluzione nel Rojava. È stato molto importante comunque riuscire e avere la possibilità e l'onore per me di poter passare del tempo con delle compagne che comunque lottano da tanti tanti anni o che hanno fatto, diciamo così, della loro della politica la loro vita proprio, no? La resistenza, c'è uno slogan che a me piace molto in curdo che si chiama Berkwadanjiane, si dice Berkwadanjiane, ed è la resistenza è vita, cioè non c'è vita senza resistenza. E quindi poi dipende, no? Ovviamente dipende dal periodo, dipende dal momento, dipende anche dalle cose che succedono, perché poi anche le cose che succedono non sono indifferenti, no? Su poi che cosa o se cosa non si racconta. Ho scelto per esempio di non raccontare l'Ucraina o come corrispondente, che avrei potuto benissimo farlo, ho deciso di non farlo, un po' perché comunque per dire c'erano, quando sono andata in Ucraina, io sono andata prima in Ucraina a gennaio, perché comunque conoscevo le persone lì, sapevo che la situazione era molto tesa ed ero andata a cercare di capire, e sapevo che la guerra sarebbe cominciata, l'avevo, insomma, per me era abbastanza chiaro per tutta una serie di motivi che sono anche geopolitici, di come si muovono, diciamo così, anche i vari stati, tutto quello che viene, no, dato alla stampa, come viene dato anche, no? Perché non è solo cosa viene dato, ma come viene dato, a chi viene dato, cioè ci sono tutta una serie di, proprio anche di dinamiche. Detto questo, quando sono andata in Ucraina all'inizio di marzo, che era appena già scoppiata la guerra, sono entrata e ho ricevuto una mail da Reporter Senza Frontiere, da quello a cui sono iscritta, che diceva che in Ucraina c'erano 1250 giornalisti stranieri, cioè una follia. E poi abbiamo visto, no, che cosa vuol dire, cioè, poi possiamo anche parlare dell'Ucraina. Detto questo, diciamo che a me piace poi raccontare le storie che non racconta nessuno, o quelli che raccontano in molto pochi. Io anche su questo volevo anche un pochino chiederti, cioè, secondo te come, questo viene un po' dalla mia riflessione, perché è una cosa che ho notato, cioè di quanto poco vengano coperti, cioè vengano che mi vengono le parole in inglese, ragazzi. No, Dillo in inglese. Il nostro pubblico è poliglotta. Vai. Nella sfera giornalistica italiana, diciamo, mi viene sempre. Mi sembra sempre che questi conflitti, o comunque ad esempio il conflitto in Iraq e in Siria, o comunque qualsiasi questione in realtà legata al Medio Oriente, ad esempio, che è l'area che sto studiando e quindi per cui sono particolarmente interessata, sono sempre o completamente ignorati oppure quasi. Quindi, cioè, cosa pensi anche dell'informazione giornalistica riguardo a queste cose, questi conflitti, queste questioni in Italia? Perché l'abbiamo visto, adesso me ne è fatto venire in mente ad esempio per l'Ucraina, cioè di quanto veramente è stato coperta la questione dell'Italia, cioè la questione dell'Ucraina in Italia, comparata a quanto invece è stata completamente ignorata qualsiasi altra questione ugualmente problematica in altre parti del mondo. È una cosa ovvia, però io ti chiedo comunque. Allora, se noi pensiamo, no, che oggi, secondo Oxfam, ci sono 480 conflitti nel mondo. Questo dà il metro, no, di quanto comunque noi siamo, noi, il giornalismo italiano e in generale il giornalismo mainstream è selettivo rispetto a quello che si racconta. Se noi adesso parliamo del Medio Oriente, che sicuramente viene ignorato, cioè poi magari parliamo di quello che sta succedendo adesso, che anche questo viene ignorato, però io penso un continente come l'Africa, in Italia non viene coperto, l'America Latina non viene, l'America, il Sud America non viene coperto, beh, l'Australia non lo so, non esiste, la Cina un po' di più. Però, cioè, questo dà anche, no, il metro di che tipo di sguardo noi abbiamo sul mondo. Perché anche questo, no, ci dobbiamo, diciamo così, interrogare. Poi, per esempio, appunto, sempre parlando di giornalismo, in Italia, l'Italia sul documentario, che è un altro, diciamo, ambiente che conosco abbastanza bene, è totalmente carente. Cioè, in Germania ci sono almeno due canali che fanno solo documentari, ma non documentari Piero Angela, cioè documentari veri, documentari di gente che va in giro, cerca di mettere insieme le cose. Penso ad Arte in Francia, che è un bellissimo canale che fa dei documentari e comunque anche lì li commissiona, cioè comunque c'è un'attenzione, c'è uno sguardo. In Italia questa attenzione non c'è. Abbiamo il maestro Rosi, per dire, che fa un tipo di documentario inaccessibile secondo me alle grandi masse, ma soprattutto non fa non dà delle informazioni, no? Perché se uno vede Fuoco a Mare sappiamo che è girato a Lampedusa, però c'è, cioè, poi, quindi bellissime immagini, bellissimo, meraviglioso, ma non è il documentario, diciamo così, che si ha in mente, quello che aiuta comunque, non solo, che non deve essere per forza comunque come se fosse un servizio di telegiornale, ma un documentario ha tante facce, ha grande respiro. Vabbè, insomma, stavo divagando, stavo andando a un'altra cosa. è certo che comunque è super problematico come vengono coperte comunque anche e soprattutto le guerre, no? Il ruolo della Turchia spesso e volentieri è messo sotto un tappeto, comunque lo si dice ma non lo si dice troppo, e come poi sempre per cercare di appianare tutti i vari umori di quelli che poi sono i maggiori azionisti dei giornali italiani, perché poi c'è anche quell'aspetto. Per cui comunque in Italia abbiamo dei grandi poli fatti da azionisti che comunque non controllano solo un giornale, ma controllano tante altre cose, che hanno amici che sono alla Leonardo e via dicendo, no? E quindi anche questo, diciamo così, diventa poi estremamente complicato fare informazioni. La maniera in cui vengono coperti le guerre in generale, ma anche non solo in Italia, quello che viene cosiddetto il giornalismo paracadutissimo, cioè un giorno succede qualcosa in Libano, boom, vai in Libano per una settimana, poi vai in Afghanistan, poi vai di qua, poi vai di su, però cioè comunque vai in giro solo a vedere le guerre, ma poi non sei in grado veramente di capire il perché e il per come della guerra, perché è successo questo. La continuità non c'è, assolutamente no. Per cui comunque tutto vale tutto, cioè più o meno c'è un'approssimazione. Credo che in generale, ed è anche brutto dirlo così, però il giornalismo italiano sia molto approssimativo. Cioè non dà dei veri dati. Da qualche, per dire, una frase che in America cioè non puoi dire, e adesso faccio un esempio così, da qualche anno il Partito Democratico sa il caso. In America non potrai mai scrivere da qualche anno, dal 2018, devi essere precisa. E questo è una cosa che a me piace moltissimo, moltissimo. Cioè la cura della notizia, della singola notizia è importante, sì certo. Ma infatti io è per quello che anche la domanda mi è sorta, appunto perché spesso gli esempi sono tantissimi, si aspetta l'avvenimento grave, non so come spiegarlo, per effettivamente parlare di qualcosa, ma si nota tantissimo appunto la selezione che viene fatta dalle testate giornalistiche nel poi abbandonare completamente l'argomento dopo due notizie in due giorni, oppure invece seguirle quasi anche troppo assiduamente, che poi va a creare ancora più confusione, secondo me. Per cui da una parte si è completamente ignoranti su quello che succede nell'80% del mondo, dell'altra si è invece quasi troppo informati su cose, per cui si va a creare una confusione e un conflitto anche tra diversi punti di vista, diverse cose, per cui alla fine non si capisce. Non solo si ignora 80% dei conflitti del mondo, ma anche quelli che vengono coperti poi non si capiscono mai fino in fondo, cioè non so come... Ma sai, c'è anche una questione che appunto con questo tipo di giornalismo, per cui un giorno fai questo, poi un giorno fai l'altro, poi fai quell'altro ancora, sì certo copri, magari ci sono giornalisti che fanno, non so, coprono, che ne so, la politica estera, però non c'è specializzazione, quindi anche se non so, durante il Covid c'erano forse uno, due, tre giornalisti in Italia che sapevano veramente di sanità, che era quello il loro lavoro da sempre, quindi riuscivano a capire tutti i veri meccanismi, no, delle cose. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque anche quando, se tu domani mi metti a scrivere un pezzo su non lo so, il calcio, ok, adesso facciamo una cosa, la maratona, come posso, no? Scriverlo veramente e a informare anche altre persone, o studio per 48 ore consecutive, ma comunque non avrò mai, diciamo, le parole, il linguaggio, saper capire noi, cioè se io scrivo un pezzo io devo capire di quello che sto scrivendo, altrimenti lo vedi proprio nella qualità delle cose. Allora, io vi chiedo scusa, ma vi devo proporre un'altra piccola pausa per fare in modo di rigenerare un attimo la connessione, così possiamo continuare a parlare liberamente. Quindi rimetto sempre Felacuti che ci accompagna e tra pochissimo di nuovo on air con Free Speech e Benedetta Argentieri. A tra pochissimo! Mm-hmm. no good. Now for instance, them they like him not be so. He be so. Them go turn your yeah, condition and close them country away no so. He be so. Them go turn your yeah, condition and close them country away no be so. He be so. Them judge him go cocky weak and jail him brother away no be so. He be so. Them judge him go put him weak and jail him brother away no be so. Them go proud of the name and put them slave them for head. He be so. Colo mentality now make you hear me now. It's a ransom he make you hear. It's a Williams he make you hear. It's a Aliyah he make you hear. It's a Muhammad he make you hear. It's a Anglican he make you hear. It's a Bishop he make you hear. It's a Catholic he make you hear. Muslim, make you hear. The Africa we never make you hear. The Africa we never make you hear. Follow mentality hear. Follow mentality hear. It's a ransom we make you hear. It's a ransom we make you hear. The Africa we never make you hear. The Africa we never make you hear. Follow mentality hear. Eccoci di nuovo, sempre Free Speech, sempre mercoledì 23 novembre, nonostante riesca a incartarmi anche a dire la data di oggi, ma è la stanchezza, siamo, sera per tutti e tutte. Siamo sempre come le dette argentieri, io di nuovo lascio la parola ad Alice, vai Alice, colpisci. Io volevo un attimino toccare la che abbiamo già nominato prima, la questione curda. Io appunto, come accennavo prima, sto studiando la regione del Medio Oriente e più vado avanti con i miei studi, più mi rendo conto di quanto, non solo appunto a livello giornalistico, ma proprio anche a livello accademico, sia ignorata o spesso anche peggio, travisata la questione dei curdi. Quindi la mia domanda molto banale è che so che tu invece ti occupi molto della questione curda. Perché credi sia importante e secondo me è anche estremamente attuale, quindi e soprattutto è una questione, una problematica alla base di tanti altri conflitti e tante altre notizie che sentiamo, che però spesso viene ignorata. Quindi come mai scegli di parlarne, come scegli di parlarne e quanto credi che sia importante e influente su anche altre questioni e notizie? Posso farci qualche esempio? È un po' una domanda ampia come sempre. Allora sì, è una domanda molto ampia, nel senso che comunque io ho scelto poi di raccontare in maniera, diciamo così, continuativa la questione curda, perché in realtà nella questione curda vediamo tante contraddizioni del nostro sistema proprio. Di quello che è successo comunque ai curdi 100 anni fa, l'anno prossimo nel 1923 con il trattato di Losanna, la divisione in quattro stati, questi stati che sono stati comunque estremamente violenti ed oppressivi nei confronti della popolazione curda, e non sono peraltro, no? Perché quando parliamo di Turchia non possiamo dimenticare il genocidio degli armeni, non possiamo dimenticare gli allevi, non possiamo dimenticare poi anche tante altre cose, però in realtà loro, cioè il movimento di liberazione curda, che non è che sono tutti curdi, però il movimento di liberazione curda si è fatto propositiva per un cambiamento che andava al di là anche dei loro confini, no? Un'analisi soprattutto da parte di Abdullah Öcalan, che è il fondatore del PKK, il Partito dei Lavoratori Curdi, che è in prigione dal 1999 nell'isola di Imrali, cioè comunque promotore di un sistema alternativo, di una nuova maniera di vivere, no? Di qualcosa che va proprio veramente al di là, ma è una riflessione proprio sul mondo capitalistico, sul sistema capitalistico, che cosa è liberale, che cosa vuol dire, no? Vivere in questo sistema. E questo per me, diciamo così, da un punto di vista poi anche molto personale, è stato molto importante, perché leggendo e parlando con diversi esponenti del movimento di liberazione curdo, ho cominciato a capire veramente di che cosa stavano parlando, che cos'è che erano i grandi problemi, no? Per cui comunque continuavamo a vedere genocidi, guerre, abusi, soprusi, ormai, no? Se noi parliamo e guardiamo le nostre società completamente polarizzate, assolutamente non diciamo così non più democratiche, una, insomma, tutta quella serie di cose che sono state anche molto importanti. E come ho scelto di raccontarlo negli anni, in diverse maniere, no? Raccontando la guerra, prima di tutto, che c'è stata contro il nord-est della Siria, in particolare da parte della Turchia, la guerra contro l'ISIS è stato con articoli, cose appunto per raccontare quello che succedeva, e poi con dei documentari per appunto andare a cercare di approfondire. Non era tanto, no, io oggi voglio fare un documentario, ma più che altro vorrei raccontare questa storia. Come faccio a raccontare questa storia? Ci sono tanti diversi mezzi, no? C'è la scrittura, ci sono tante possibilità, no, di raccontare una storia, ma una storia non può essere raccontata con tutti questi mezzi, quindi cercare di capire qual è la cosa giusta per la storia, assolutamente. E infatti una cosa che è un'altra cosa che me l'ho segnata, cioè un problema che mi pongo spesso, e anche per la comunità curda, così come anche altre comunità storicamente represse o comunque neanche riconosciute. Mi chiedo spesso, e appunto anche per quello che studio, che noto che, cioè, io ho avuto anche professori che mi venivano a dire su cosa fai il prossimo S, e io dicevo sulla comunità curda, e loro dicevano ah, c'hai la fissa. No, cioè io mi chiedo spesso come sia meglio affrontare anche la storia e le lotte di queste comunità, cioè è meglio incoraggiare i media e il mondo accademico, ad esempio, a parlarne, o è meglio cercare di incrementare anche piattaforme per dare voce alle persone della comunità stessa? Cioè, qual è il tuo punto di vista su questo, e cosa cerchi di fare, in che direzione cerchi di andare tu? Ecco. Una cosa non esclude l'altra necessariamente, prima di tutto, ma poi soprattutto bisogna capire che ruolo si vuole avere, no? In questa cosa. Se magari, anziché adesso non so, rispetto a dove sei tu, no? Quali possibilità ci sono, eccetera, però è quello di trovare delle storie, cioè a me piace raccontare le storie più che, certo, dare voce, però raccontarle, cercare raccontare una storia, però raccontare appunto far parlare una persona, e quando racconti una storia e attraverso una persona vuol dire anche cercare di tradurre, passami il termine, che cosa questa persona sta dicendo. Ritorniamo, no, al potere del linguaggio, a cercare di capire le impressioni della voce, a cercare di capire, perché non è solo riportare Alice, aperte le virgolette, ha detto questo, quest'altro, però metterle nel contesto. E qua è che è il lavoro da giornalista, veramente, cioè di mettere le parole di Alice nel contesto perché siano comprese. È per questo, perché penso che sia un processo molto complesso e che quindi spesso, come diciamo, in modo più sbrigativo e per far fin- cioè per parlarne, però senza mai veramente capire cosa vuol dire, anche come vuole, non so, il messaggio che vuole far passare anche la comunità. È, cioè, secondo me è appunto importante sentire cosa hanno da dire le persone stesse, perché appunto perché vedo quanto viene travisata questa questione, quanto viene manipolata. Cioè, secondo me spesso, anche leggendo, informandomi a livello di articoli accademici e cose che sono state scritte, mi rendo conto di quanto secondo me riflettano poco poi quello che invece è la realtà, non so come dire. Beh, sai, comunque, di nuovo, no? Certo che adesso la persona poi porta anche il messaggio politico e tutto il resto. Dipende, di nuovo, noi stiamo facendo le grandi generalizzazioni, ci sono delle persone, degli accademici che non sono necessariamente compagni e compagni, che però invece la capiscono molto bene, no? La questione. E quindi dipende molto proprio anche l'approccio che si usa nel lavorare, la volontà che si ha quando si scrive qualcosa veramente di raccontare. Però il punto è, a prescindere dalla comunità curda, eccetera, c'è anche un'etica, no? Cioè, a me piace moltissimo, ho avuto una lettura, adesso l'ho ritirato fuori per voi, che si chiama Rebel Reporting, no? Che è questo giornalista americano, John Ross, che sono, diciamo così, le sue lectures, eccetera, che parla di che cosa vuol dire essere un reporter ribelle. A me piace molto questo concetto del reporter ribelle, no? Il reporter ribelle è il reporter che si schiera, che ha cura, diciamo, delle storie che gli vengono affidate. Questo è proprio una cosa dell'etica, no? Dobbiamo avere il rispetto per le persone che ci raccontano le loro storie, che ci affidano i pensieri. Poi dipende, no? Ci affidano anche i grandi dolori, per esempio. Questa è una cosa, soprattutto, no, nel mestiere che ho fatto ultimamente io, in cui ho raccontato i grandi dolori delle persone, perché vivere in un campo profughi è una delle grandi tragedie che ti può accadere nella vita, essere sotto le bombe, cioè, sono comunque delle cose delicate. Ma è la stessa cosa se si andasse comunque a Milano, comunque, a raccontare delle storie delle persone più svantaggiate. Noi abbiamo comunque il dovere di raccontare queste, diciamo, persone, tutto quello per cui loro lottano, e metterle nel contesto per cui siano comprensibili anche dalle persone che vivono magari delle realtà molto diverse da loro. Però cercare di creare quel ponte di empatia. E quindi questo, poi vabbè, lui, io lo consiglio molto, John Ross, perché comunque, vabbè, lui è stato un giornalista americano, adesso è morto, è stato il primo in America a scrivere degli zapatisti, e ha vissuto tantissimo in Messico, tantissimi anni, completamente contro, diciamo così, tutto quello che è il corporate media, media corporativi, dell'assimilazione, no? Perché poi se noi guardiamo i telegiornali anche in Italia, no? Vediamo che c'è una maniera, una canonizzazione di come si dicono le cose, di come si vestono, di come ci si trucca, di come si sta in video. Cioè, è un'assimilazione. Quella è assimilazione. E poi, comunque, non dobbiamo dimenticarci che, come in tanti altri campi, il giornalismo è un campo di battaglia per la propaganda. Per cui, comunque, anche questo, cioè, è evidente, no? Adesso ci sono tantissime lobby in giro per il mondo. Per esempio, una lobby molto forte negli Stati Uniti, manco a dirlo, se è la lobby israeliana, ok? O in Europa la lobby turca, e sono bravissime. Sì, infatti, prendendo quello che ha appena nominato, cioè la Turchia, Erdogan, anche riguardo agli ultimi avvenimenti, quindi l'attentato, ad esempio, del 13 novembre, che è recentissimo, sembra che stia usando questo come ennesimo pretesto per reprimere ancora di più la comunità curda, quindi soprattutto in vista delle elezioni del 2023. Come pensi che si evolverà la situazione, ad esempio, nella regione autonoma del Rojava? Allora, al 13 novembre c'è stato questo attentato a Istanbul vicino a Taksim Square, dove sono morte 6 persone e ferite tante, tipo una tantina mi sembra. E fin da tipo dopo 2 ore i servizi turchi hanno arrestato questa donna, che viene accusata di essere, diciamo così, collegata in qualche maniera allo YPG, allo YPG, le unità di protezione del popolo e delle donne, no, nel nord-est della Siria. A parte il fatto che comunque lo YPG e anche il PKK per questo hanno subito smentito, esatto, di avere nulla a che fare, di avere a che fare con questo attentato, perché comunque cioè non c'era alcun tipo di motivo, poi non è proprio nel modus operandi di nessuna delle organizzazioni, non è nel, diciamo, anche perché da diverso tempo, da diversi mesi, Erdogan aveva annunciato una terza incursione nel nord-est della Siria. C'è stata già un'incursione nel 2018 ad Afrin, in realtà questa sarebbe la quarta, nel 2016 Jarablus, nel 2018 Afrin, nel 2019 Serekanie, e questa sarebbe stata comunque una quarta offensiva contro il nord-est della Siria per cercare di indebolire, nella migliore delle ipotesi e nella peggiore delle ipotesi, di comunque spazzare via tutto il processo di entrare nel nord-est della Siria. E quindi che cosa è successo? Fatto questo attentato, questa donna viene arrestata, però viene fuori che questa donna, in realtà i suoi tre dei suoi fratelli sono stati uccisi perché erano militanti dell'ISIS. Lei stessa è stata sposata, si dicono nelle fonti delle forze democratiche siriane, che sia stata sposata con anche lei con un elemento dell'ISIS. Quindi voglio dire, adesso la Turchia ha una lunga storia di comunque deep state, diciamo così, e senza andare molto lontano, voglio dire, è facile accusare comunque una donna che viveva ad Afrin sotto la Turchia, perché comunque Afrin di fatto poi adesso è sotto il controllo della Turchia dal 2018, e dire fa parte dello YPG e cominciare comunque una campagna aerea impiegando 60 jet, 80 obiettivi, 30 morti civili e comunque bombardando di fatto degli altri stati sovrani. La contraddizione enorme che c'è, che non è molto diverso rispetto a quello che Putin sta facendo in Ucraina, no? Però la differenza è che Putin è il nemico numero uno degli Stati Uniti, e lo è sempre, cioè lo è da molto tempo, diciamo così, non Putin ma la Russia di per sé, e quindi va sanzionata la Turchia, è sempre, come l'aveva descritto Mario Draghi, il dittatore comodo, certo, il dittatore di cui abbiamo bisogno, no? Perché chissà se no che cosa succederebbe. C'è sempre, no, quando nella politica istituzionale c'è sempre questo spauracchio: noi abbiamo bisogno di questo perché chissà se cosa succederà poi. Perché il fine giustifica i mezzi in politica, no? Di solito dicono così. Però insomma, il fine di chi, dovremmo capire, no? Quindi quello che sta succedendo che in questo momento Rojava il nord-est della Siria, non solo Rojava, perché questa è un'altra cosa, oggi è stata colpita una base di fatto in cui venivano addestrate delle forze speciali che si chiamano IAT, che sono quelle antiterrorismo, no? Quello che poi vengono usate ancora oggi contro lo Stato Islamico, perché la favola che lo Stato Islamico non esista più è una favola che si racconta in Europa, ma lo Stato Islamico c'è, vive, lotta insieme a noi e tornerà, cioè non è che è andato via. Compagni che sbagliano, antiimperialisti veri, come dicono alcuni tra i più scioccanti e scioccati prefiguri talvolta che si intravedono in alcuni cortei, no, non funziona, scusate. Falli parlare con Davide Grasso, esatto. Comunque. Detto questo, cioè, ed era una base comunque dove c'erano gli americani e tutti hanno bombardato, e questa base è a 50 chilometri dentro, dal confine, no? Quindi poi viene stata, cioè comunque c'è Raqqa, c'è Manbij, ci sono tutte comunque delle zone a prevalenza araba che hanno abbracciato quel federalismo democratico, che sono parte dell'amministrazione autonoma, però comunque obiettivi per Erdogan. Quindi di nuovo, no? Non mi sembra, io non ho visto nelle ultime ore o giorni così queste levate di scudi che ci sono fatte anche per altre, diciamo, cose, no? Vediamo tutti, cominciano le proteste in Iran, tutti siamo iraniani, come sempre, no? eccetera, però tutti che si appropriano comunque dello slogan Jinji Anasadi, che è lo slogan delle donne curde che hanno ripreso Raqqa nel 2017, però di questo non si parla. Guarda, hai assolutamente prevenuto le mie ultime due domande, cioè mi hai completamente mi hai fatto stare il programma, perché è esattamente quello che stavo per introdurre, cioè le proteste in Iran e quanto, appunto rimanendo anche sul tema della questione curda, sia assolutamente ignorato e tralasciato, non solo, cioè, I argue, non solo da, a livello proprio dei media, a livello dei media internazionali, ma anche in molte occasioni di proteste di iraniane, quanto venga tralasciato completamente il dettaglio che stiamo parlando comunque di uno slogan curdo e di quanto, cioè di come le proteste in Iran siano effettivamente scoppiate dalla morte di Mahsa Amini, che è una donna iraniana ma curda. Quindi Mahsa Amini è il suo nome da iraniano, esatto, il suo vero nome è Gina Mina. Esatto, cioè quanto questa cosa sia completamente o quasi completamente ignorata, e quindi volevo anche su questo chiederti, ad esempio, che ruolo secondo te hanno i curdi in questo, in queste nuove proteste che stanno avvenendo in Iran, e che futuro possiamo prevedere anche per i curdi in riguardo alla... Guarda, io di previsioni non ne faccio mai, perché non trovo che sia giusto. Anche se ci saranno in questo momento, non è veramente difficile farle. Però volevo fare un'ultima cosa su Jinji Anasadi, perché la donna che ha coniato questo slogan, Jinji Anasadi, che è Nagahan Aksel, che era una compagna curda, è stata assassinata a Sulemania un mese e mezzo fa. E lei è, diciamo così, è stata una grandissima ricercatrice, autrice accademica, specializzata nella genealogia, che è la scienza delle donne, oltre a essere una donna splendida, e aveva coniato, dagli scritti appunto della genealogia di Ocalan e tutto quanto, questo slogan Jinji Anasadi, ed è stata assassinata a Sulemania, cioè nel Kurdistan iracheno, uscendo da casa sua 11 colpi alla schiena. E in concomitanza poi con quello che stava avvenendo in Iran. In Iran quello che succede, appunto, come hai detto tu, Gina Minni viene uccisa dalla polizia morale per l'hijab portato male, e cominciano le rivolte. Oggi le rivolte, negli ultimi 2 o 3 giorni, il Rojalat, che è il Kurdistan iraniano, l'est Kurdistan, c'è stato un bagno di sangue, perché appunto in tutta la zona comunque si voleva scacciare il regime per cominciare l'esperienza di autogoverno. Quindi, ma qual è il problema che adesso si sta avvenendo in Iran? Che comunque altre comunità, altre minoranze capiscono, no, che cosa vuol dire l'autonomia. Questo perché? Perché comunque ci sono stati, a parte un lavoro politico di oltre 40 anni nel movimento di liberazione curdo, di capire, no, che non è, noi non vogliamo uno Stato, diciamo così, questo è quello che dicono, noi non vogliamo più uno Stato, cioè il movimento di liberazione curdo non vuole uno Stato, non vuole creare uno Stato-nazione, ma vuole l'autogoverno, cioè il confederalismo democratico. Questa cosa sta crescendo anche in Iran, e quindi bisognerà capire, perché poi comunque, voglio dire, in Italia non se ne parla per niente, all'estero cercano di avere notizie ma sono molto poche, sono molto frammentate, non si può andare lì, è molto pericoloso, cioè ci sono tutta una serie di questioni molto molto difficili, no? Ci sono comunque dei social media, e in questo la parte bella dei social media, no, che qui continuiamo a vedere video di proteste, di cose, però in realtà noi non sappiamo veramente quello che sta accadendo nel paese, no? E quindi è per questo che dico, no, non è giusto fare delle previsioni che cosa succederà, non ne ho un'idea, può succedere di tutto, può succedere che comunque si riescano a trovare comunque questi spazi di autogoverno, possibile anche che la repressione sia talmente dura che venga tutto spazzato via, può essere anche che si trovino dei compromessi, quindi pacificazione delle lotte, possono essere tante cose. Grazie. Ne approfitto io per fare una piccola considerazione. Io pensavo che il fatto che i media italiani non parlassero del fatto che fossero delle proteste principalmente curde contro il governo iraniano fosse in realtà una, non dico voluto né pensato, perché effettivamente forse i media italiani non sono arrivano a questo livello di profondità intellettuale, però che in realtà facesse il favore del movimento curdo, perché derubricare tutta una rivolta etnica contro il governo iraniano è un conto, che il che la popolazione, la società iraniana ormai non sopporti più il suo dittatore è un altro discorso. Cioè mi sembra quasi meglio, no? Non esclude un'altra, eh? No, sicuro. Per cui comunque hai delle proteste che cominciano da Rojalate e oggi sono anche a Isfahan, che non è comunque zona curda, ma cioè è Iran, no? Cioè, di nuovo, no, ma io sono d'accordo con quello che dici tu, certo da un certo punto di vista diventa più complicato spiegare, no? In un articolo che questo è in realtà lo slogan curdo e quindi di nuovo andiamo all'approssimazione. Il problema è l'approssimazione, cioè io non ci leggo, no? Ah, hanno fatto così perché non c'è, secondo me questo è proprio l'approssimazione, ormai si fanno le cose, si prendono le ansie, si dicono due robe e ciao, ed è finita lì. Tanto approssimativo che poi quando invece fai le stesse uguali identiche proteste in Italia sei un violento terrorista black bloc, se invece fanno le stesse identiche cose ma in Francia, i gilets jaunes, in Germania, piuttosto che in Turchia, piuttosto che in Siria, va tutto benissimo, va bene così. Beh certo, no, va tutto benissimo, perché poi comunque il giornalismo in Italia, soprattutto quello diciamo che segue la politica parlamentare, il governo eccetera, io non ho mai sentito fare una domanda scomoda nella vita, manco per sbaglio. Forse guarda, io spesso diciamo così, ormai l'unico giornale con cui collaboro in Italia è The Post Internazionale, che con tutti i limiti però comunque diciamo c'è grande rispetto alle competenze e la volontà di fare domande. L'unico che seguo ancora un po'. No, volevo chiedere una cosa, io volevo fare una serie di domande secche forse, magari anche per arrivare verso la conclusione, perché comunque siamo in trasmissione da un po', magari liberiamo Benedetta nel suo mercoledì sera. No, allora, prima domanda, che poi torna anche sulla questione della differenza tra tipi di giornalismo nei vari paesi. Il giornalista, quello che è il tuo modo di intendere il tuo mestiere, è colui o colei che denuncia la verità che è taciuta, mostra una verità che non si sapeva o che contribuisce a far parlare l'opinione pubblica, la gente di uno Stato, le persone di determinati argomenti. Perché sono anche un po' magari le impostazioni che ci dicevamo prima riguardo al giornalismo statunitense, che è capace di fare grandissime inchieste e denuncia le malefatte del potere, ed è un po' quel presidio della democrazia per cui i cittadini e soprattutto gli elettori e talvolta anche i contribuenti molto spesso vengono messi così, devono essere informati per scegliere bene i loro politici, o deve essere, non so, il giornalismo è anche appunto mostrare cosa c'è nel mondo, approfondire il fatto che forse ci può vivere anche senza Stato, e allora il giornalista è anche quello che fa approfondimento su un tema che magari è complesso e non viene analizzato nella discussione. Però una cosa non esclude l'altra, nel senso che cioè comunque ci sono tanti tipi di giornalismo, no? Come dicevamo prima, c'è il giornalismo d'inchiesta che è una cosa, c'è il giornalismo insomma eccetera eccetera, e quindi sono tante cose. L'importante secondo me è avere comunque coerenza etica nel farlo e appunto raccontare le storie per come lo sono, no? Cioè, noi abbiamo, insomma, in questi ultimi 20 anni si è parlato molto del giornalismo che non deve essere di parte. Ma cosa vuol dire non essere di parte? Esatto. Perché c'è proprio anche questa questione, no? Bisogna presentare i fatti, certo, però che cosa vuol dire? Ah, se tu fai parlare solo i manifestanti e non dici quello che dice la polizia. Ho capito, ma la polizia lo può dire in 1000 altri comunque giornali, comunque a prescindere. E poi non è che, diciamo così, il ministro dell'interno può, è ovvio che ha un peso molto diverso rispetto a un manifestante, no? Quindi che pesi, che misure tu prendi anche all'interno delle cose, saper raccontare e soprattutto non perdere e prendere per vero tutto quello che ti passa la polizia, no? Per quel che riguarda la piazza oppure eccetera, no? Poi ci sono tanti esempi che potremmo fare. ecco, cioè, secondo me il giornalista è quello che sicuramente no, o la giornalista è quella che non ha paura, la cronista, perché poi insomma, è quella che non ha paura di comunque raccontare le cose come stanno, di andare contro il potere per appunto raccontare quello che succede. Allora a questo punto faccio un'altra domanda che andava molto bene quando aveva intervistato Gabriele, perché avendo lui a che fare con la Cina e per cui con un apparato abbastanza paranoico di controllo e diffusione delle informazioni, il punto che abbiamo discusso a lungo con lui era dove sta la verità. Cioè, il momento in cui tu hai un partito politico di 90 milioni di iscritti con 180 milioni di stipendiati che deve cercare in ogni maniera di controllare qualsiasi tipo di informazione che circola, il problema era: come fai tu a dire che una cosa è vera e come fai tu a descriverla? E allora ci ha spiegato più o meno. Per te, giro un po' la domanda, viene da chiederti, per te qual è la verità e come fai a costruire qual è la, diciamo, il rapporto del giornalista con la verità secondo te? Perché è una cosa complicata. La domanda è: che cos'è la verità? Nel senso che ci sono i fatti, ci sono quello che accade, ok? E poi c'è comunque noi viviamo, potrebbe essere descritto in un regime di verità, per cui comunque tutti gli apparati dello Stato vanno sempre verso una direzione, no? Non sempre, però spesso e volentieri. Quindi che cos'è la verità? Non esiste una verità, ci sono tante verità e poi ci sono i fatti. Secondo me c'è anche questo da prendere in considerazione, no? Quando parliamo, perché la verità è una cosa per qualcuno, un'altra cosa per un altro, cioè ci sono tante sfaccettature, no? Come adesso non nella stessa categoria così ampia, però è una questione anche cos'è la libertà. Se noi andiamo in giro per il mondo, diciamo, che cos'è la libertà, no? E la stessa, una cosa simile accade per la verità. Quindi noi dobbiamo raccontare i fatti. E i fatti sono indiscutibili. Oggi ha piovuto. Cioè, non è che... No? Non ci piove, peraltro. Bella questa, brava. Complimenti, Alice, bravissima. Va bene, allora, io tendenzialmente ho finito le domande. Alice probabilmente ne avrebbe altre 350, però a questo punto possiamo anche chiudere semplicemente il microfono e si va avanti quante ore volete senza problemi. A un certo punto dovrà andare a dormire, che domani si lavora, forse anche Benedetta, immagino. E vabbè, comunque, secondo me è una cosa favolosa. Io a questo punto vorrei lanciare, proprio mentre siamo in diretta, una piccola cosina che ho pensato. Se tu, Benedetta, hai voglia, con calma nel futuro, o anche subito se riesci, di pensare a un tuo collega o una tua collega che pensi possa essere coinvolgibile, che non avrebbe a noia di sopportare me, ma magari avesse voglia di ascoltare le domande di Alice, così noi migriamo di giornalista in giornalista e andiamo un po' a giro, perché sennò abbiamo i 5 contatti che abbiamo da zecche maledette dei centri sociali e da lì oltre non si esce. Se invece ci dici tu, piano piano facciamo un cammino e incontriamo persone nuove. Va bene, adesso ci penso e ve lo faccio sapere. Le faremo sapere, fantastico, fantastico. Speriamo di essere richiamati. Favoloso. Va bene, Alice, prego, saluta tu, dai, chiudi te, non parlo troppo. No, guarda, io voglio... Sei bloccata proprio al momento migliore. Mannaggia. Il tuo ultimo film, The Matchmaker. Non ho capito però la domanda. Se ci ricordi dove prima hai accennato, se ci ricordi dove possiamo trovarlo. Arrivo, ecco. Allora, sì, perché il nuovo film, abbiamo fatto questo nuovo film che si chiama The Matchmaker, che racconta le donne dello Stato Islamico. Per una volta sono andata dall'altra parte a raccontare, no? E soprattutto a cercare di ristabilire un'altra verità, per l'appunto, rispetto al ruolo delle donne nello Stato Islamico, no? Spesso e volentieri nei media mainstream le abbiamo viste comunque come sottomesse, o hanno scelto di andare con il marito, comunque stavano a casa, e la realtà è molto più complessa e più sfaccettata, nel senso che comunque per le donne c'era la possibilità di combattere, di fare parte della polizia morale, soprattutto sono accusate di aver fatto, diciamo così, erano a capo delle tratte delle Yazid, e insomma, diciamo, sappiamo anche che hanno combattuto, che hanno, si sono formate, eccetera, soprattutto le donne straniere. E quindi è una intervista a questa donna che si chiama Tuba Gondal, che è una donna, giovane donna che era partita per il califfato nel 2015 a 20 anni, che è diventata la più grande propagandista del, dello Stato Islamico. E in, da settimana, no, scusatemi, dal 24, cioè da domani, il film sarà online sulla rete degli spettatori, che è sulla rete degli spettatori.it. C'è una rassegna, appunto, che parte domani, che si chiama Tutto Schermo, e il film, insomma, si potrà vedere anche online per una settimana. Perfetto, grazie mille. Fantastico, andremo a vedercelo. Grazie mille, fantastico. E esatto, andremo a vederlo, lo consiglieremo, lo consigliamo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Grazie mille, grazie di cuore, Benedetta, per essere stata con noi stasera e per esserti sorbita tutte le mie domande lunghissime e complesse. E grazie. E grazie a voi. Buonanotte. Ciao, buona serata. Buonanotte, buonanotte. Grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, purtroppo io ho dovuto buttare giù la telefonata, quindi rimango solo io, per vostra sfortuna, ma metto subito la sigla. Free Speech, mercoledì 23 novembre 2022 ce la posso fare. E niente, torneremo presto, probabilmente il mese prossimo, con la prossima intervista a un fantastico giornalista. Grazie mille a tutti e a tutte di averci ascoltato, ciao!